Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Settimana scorsa ci siamo occupati dei programmi europei per il finanziamento del risparmio energetico. Questa settimana invece ci concentriamo sulle rinnovabili con l'aiuto di Elena Murelli, docente di informatica generale ma soprattutto di progettazione europea presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Buonasera Murelli, benvenuta a Mr. Kilowatt. Buonasera a tutti, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, beh, intanto diciamo una cosa, quadro generale proprio introduttivo, mi confermi oppure smentisca. Intanto vabbè, siamo di fronte a finanziamenti certi e a tempi certi, questo è molto importante soprattutto parlando di ricerca, però siamo di fronte anche a progetti mediamente abbastanza complessi e a una grande attenzione per la formalità da parte delle istituzioni europee nel valutare questi progetti, quindi è meglio forse farsi aiutare, questo va detto subito, a compilare anche questi bandi. Sì, assolutamente, ed è proprio questo che faccio, affiancare i vari enti, università e aziende che hanno bisogno nella sottomissione di queste proposte, proprio perché la parte burocratica di confezionamento della proposta, non dico che è complicata, però va curata nei minimi particolari. È vero, sono finanziamenti a fondo perduto, si arriva anche al 75% in alcune case a seconda dei programmi e a seconda dell'ente. Poi lo vedremo. Ma soprattutto sono finanziamenti certi, come possiamo immaginare, naturalmente la Comunità Europea dà anche un prefinanziamento, nel momento in cui si vince il progetto, si firma il contratto, si riceve già un finanziamento a fondo perduto per partire, cosa che è al contrario rispetto ai finanziamenti nazionali che di solito arrivano alla fine del progetto, se non addirittura dopo, ulteriormente che sia finita il rendicontato del lavoro. E sempre, purtroppo bisogna aggiungere sempre che arrivino, perché a volte non è detto nemmeno questo. Assolutamente. Va bene, partiamo con questo rapido excursus, sono tre fondamentalmente i programmi che ci interessano, ce ne sarebbe un quarto ma sta per chiudere, quindi è inutile parlarne. Prego, sì. Murelli. Allora, il quarto è proprio sulle energie alternative, si chiama Intelligent Energy Europe ma scade il 24 di giugno, quindi non entrerei nel dettaglio visto il poco breve tempo. Gli altri tre sono importanti, il primo si chiama Life Plus, Life Più, scade il primo di settembre, è un bando che ha tre tematiche principali, natura e biodiversità, ambiente, governance e campagna pubblicitaria e tecnologie informatiche, tutte relative appunto all'ambiente. Sulla seconda tematica, ambiente e governance, è importante sottolineare che si possono andare a finanziare direttamente dei progetti relativi al miglioramento ambientale. Ci sono delle priorità nazionali che vengono decise, naturalmente nel nostro caso dal Ministero dell'Ambiente. Certo. Bisogna rispettare quindi questi obiettivi che vengono definiti dal Ministero. Sulle anno tematiche. Per anno vengono definiti anno questi, per anno, questi esatto. Obiettivi. Sono priorità nazionali definite anno per anno sulle tematiche suolo, aria, acqua, cambiamenti climatici, energie alternative. Chi può partecipare sono direttamente gli enti pubblici, le aziende, le università e i centri di ricerca, quindi un po' tutti, però naturalmente in questo tipo di bando la priorità principale viene data anche agli enti pubblici. Quindi in questo caso diciamo è bene che il capofila sia un ente pubblico, sì, in questo sì, caso. Esatto. Ecco, tipicamente però sono richiesti accordi con altri enti di altri paesi, questo vale anche per il LIFE? Domanda molto interessante, perché in linea generale sì, sui finanziamenti europei c'è la regola che vale per tutti i programmi di tre enti di tre paesi diversi, come minimo questo consorzio. Nel LIFE invece abbiamo una caratteristica particolare, si possono presentare due tipi di progetti, un progetto transnazionale in cui vale la regola che abbiamo appena citato, sì, e invece un progetto nazionale dove un singolo ente italiano per esempio può presentare la domanda. Naturalmente sembra bene che non ci si presenti da soli, quindi in questo caso possono partecipare due o tre enti italiani sempre presentando un bando LIFE. Allora in questo caso non è obbligatorio avere partner esteri, posso presentarlo a livello italiano. Andiamo sugli altri bandi. Sì. L'altro tipo di bando si chiama Eco Innovation, scade il 9 di settembre e in questo caso invece è dedicato alle piccole e medie imprese. Gli altri enti possono partecipare senza problemi, quindi università, centri di ricerca e enti pubblici, sì, ma in questo caso saranno da partner, non faranno da coordinatore capofila. D'accordo. Il bando è molto interessante perché finanzia le piccole e medie imprese che hanno delle idee innovative in campo ecologico. quindi anche relative alle energie rinnovabili, ai rifiuti, e in questo caso il finanziamento è al 50%, cosa sempre che non abbiamo perduto. Detto prima, anche per il LIFE valeva questa regola. 50%. Ecco, cosa viene finanziato? Lo sviluppo, la ricerca, ma anche altri aspetti, se non sbaglio. Esatto, allora in questo bando Eco Innovation viene finanziata la ricerca, ma non è la principale attività. La principale attività deve essere proprio la validazione sul mercato, quindi l'azienda ha già sviluppato l'idea oppure ha bisogno un po' di ricerca per poter sviluppare fare l'ingegnerizzazione, per esempio. Bravissima, esatto. La validazione sul mercato può essere finanziata e anche l'ingegnerizzazione senza problemi. Quindi in diciamo che per chi mondo. Vuole diffondere una tecnologia che insomma ha lì pronta nel cassetto, questo potrebbe essere un bando molto interessante. D'accordo. Esatto. Quindi altro, il terzo programma? Il terzo programma è il settimo programma quadro di ricerca. Lì all'interno ci sono 10 tematiche, quella dedicata all'ambiente e all'energia. Il programma è un programma annuale determinato dai 27 Stati membri in cui si definiscono le azioni e gli obiettivi. Aprirà a luglio, indicativamente scadrà a fine dell'anno, inizio 2011. D'accordo. In questo caso il finanziamento è dedicato soprattutto alla ricerca. Quindi bene. Sono progetti di grandi dimensioni. Ma anche ricerca di base in questo caso, no? Sì, sì, sì, assolutamente. Si arriva anche a finanziamenti che vanno ai 9 milioni di euro, per esempio. I finanziamenti sono a fondo perduto. Per università, centri di ricerca e piccole e medie imprese si arriva al 75%, mentre le grandi imprese sono al 50%. Sono al 50%. Esatto. Va bene, grazie Morelli. È stato un piacere, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bene, questo è tutto. Domani, penultima puntata di Mr. Kilowatt, parleremo del patto dei sindaci. Buona serata.